vuoi parlare un po' della rivista, di questa rivista che non dobbiamo chiamare rivista perché è un libro praticamente? Sulla copertina c'è scritto librivista. Cosa intendete con questo neologismo? Ma in realtà, pensando alle tantissime riviste cui piace farsi chiamare rivista in forma di libro, ecco, noi abbiamo ribaltato un po' il concetto. In realtà siamo a tutti gli effetti un libro in forma di rivista. Questo consente così alla casa editrice, che è appunto denominato Zona Franca, la propria collana, così ci consente una fluidità maggiore tra libro, rivista, catalogo di illustrazioni. Diciamo che Zona Franca rimane un po' sulla scia delle sue anime precedenti. Hai un momento per spiegare da dove viene, perché viene da lontano Zona Franca. Sì, in effetti viene da molto lontano, perché Zona Franca è una erede in linea diretta di Letteraria. Letteraria fu una novità nell'ambito editoriale e delle riviste italiane, pensata e voluta fortemente da Stefano Tassinari, noto intellettuale, poeta, giornalista, scrittore ferrarese e bolognese d'adozione, che nel 2008 pensò di radunare intorno a sé un numero molto ampio di scrittori, intellettuali, poeti, critici, eccetera, per porre fine alla stagione mefitica dell'io e di rifondare una condizione appunto intellettuale, culturale, basata su noi. Quindi diciamo saltare a pie pari il Big Bang negativo degli anni 90 e tornare un po' a una concezione degli anni 70, dove il lavorare in gruppo, dove appunto il noi era molto più importante dell'io e dell'ego di ognuno, per tornare a una concezione collettiva di comunità. E la particolarità appunto di questa rivista letteraria, si chiamava, era quella di indagare la società, le società, la vita delle società attraverso il grandimento della letteratura, semestrale di letteratura sociale, ecco. Nella vecchia Letteraria, poi Zona Letteraria, eccetera, c'era un apparato fotografico molto importante. Qui invece l'apparato fotografico è sostituito da disegni di, scusa il bisticcio di parole, di illustri illustratori. Certo. Vuoi parlarci un poco di questa parte della rivista, dell'importanza che ha l'illustrazione in questo librivista? Certo, innanzitutto bisogna specificare una cosa. Zona Letteraria terminò le proprie pubblicazioni durante il Covid nel 2022 e io non mi sono mai perso d'animo e ho cominciato a cercare comunque un altro editore che fosse disposto a fare una scommessa con noi per far ripartire le pubblicazioni di questo semestrale sociale. E l'ho trovato in Paolo Ciampi e nei libri di Mompra. Cioè, legata ai libri di Mompra, cioè, ci sono anche dei corsi di illustrazione, eccetera, eccetera. Quindi avevamo a disposizione un numero molto alto di professionisti dell'illustrazione disponibili a collaborare con noi, capitanati da Lido Conte Mori, che è una colonna portante dell'illustrazione satirica da mezzo secolo e oltre, e insieme ai, diciamo, ai senatori che sono Lido Conte Mori, Marco De Angelis, Ives Manara, Gastone Mencherini, Genio Saint-Pierre, Fabio Sironi, Lucio Troiani, ecco, ci sono dei nomi veramente importanti dell'illustrazione e della satira. Ho voluto anche coinvolgere molti giovani che secondo me hanno una mano fatata, e quindi ho chiamato a collaborare con noi Mario Cicellin Comneno e Lorenzo Bettinelli di Milano, Cale Poratti di Firenze, Luca Garonzi da Verona, e quindi c'è un mix di nomi affermatissimi e di giovani di promettenti speranze che sicuramente rendono l'apparato iconografico della rivista una cosa molto molto bella e interessante, e comunque diventa tutt'uno con i testi. Ecco, appunto mi domandavo questo: come hanno interpretato il tema del io e noi. So che è una cosa difficile da fare, però potresti raccontarci qualcuna di queste illustrazioni che ti sembra particolarmente ficcante? Ma per esempio uno dei giovani, Lorenzo Bettinelli, ha fatto una bellissima illustrazione dove c'è un narciso, reinterpretando chiaramente una delle appunto iconografie più importanti della storia dell'arte, cioè è presente in moltissimi quadri. Lui ha interpretato dove il personaggio narciso si specchia nello schermo di un telefonino e gli rimanda un'immagine completamente diversa da quella reale, ovviamente. Oppure c'è, per esempio, una delle illustrazioni di Livio Contemori, è quella di copertina, dove c'è un Napoleone imperante sulla copertina con una scritta gigantesca io, cioè quindi la personificazione dell'io, secondo Contemori, appunto, è questa figura, questo Napoleone, mentre per esempio Eugenio Saint-Pierre ha visto l'ego come un muro che separa il personaggio della vignetta da tutto il resto. E dei noi? Ah, di noi ce ne sono molti. Spesso ci sono dei noi che sono sottoposti ad un io. Ecco, quindi è un po' lo specchio della nostra società, dove il noi stenta a farsi importante. Ci sono dei noi che spingono delle statue di molti io, per esempio ci sono queste cose, pure dei noi separati su isole diverse, cioè esiste il noi ma ognuno è comunque calato dentro un... Possiamo dire allora che i testi sono più ottimisti da questo punto di vista che non le illustrazioni? Diciamo di sì, ecco, innanzitutto. No, perché vedo però... per esempio che c'è un testo delle Operaie della Perla. Quindi... Certo, però forse le illustrazioni sono più realistiche, diciamo che hanno uno sguardo più freddo su quello che abbiamo incontro e intorno, ecco. Il tuo sguardo è un attack, è una risonanza magnetica, il tuo giudizio è libertà vigilata o sedia elettrica, nel cielo questa luna arroventata che rotola lungo il piano inclinato della vita. Come un flipper anni 80, che a un certo punto della partita partivano due palline in simultanea, è arte contemporanea, ecco cos'è svegliarsi in questa epoca, big data, patapata, niente zucchero nell'aranciata. Sappiamo che Letteraria poi ha avuto varie incarnazioni. Sì, esatto. Nuova rivista letteraria e poi più nuova tardi Nuova rivista anche... letteraria, nuova Zona serie. E poi Zona letteraria. Però quello che mi piace è che questa Zona Franca, che deriva appunto dalla vecchia Letteraria, è una rivista monografica. Come primo argomento ho proprio scelto io versus noi, io contro noi. Quindi direi quello che era la base del discorso di Tassinari. Certamente, è una dichiarazione di intenti e ovviamente un ripartire da un argomento a cui noi teniamo moltissimo. Ecco, quindi abbiamo pensato di organizzare il primo numero attorno appunto a questa tematica, attorno ai due modi contrapposti di intendere la propria vita di ognuno all'interno di una società. Una che è altamente egocentrica, che banda solamente al proprio orticello, che non si cura di chi è intorno e quindi la dimensione dell'io, contrapposta quindi contro una visione sociale, solidale, che ha attenzione anche nei confronti di tutti, soprattutto delle fasce più deboli. Come è stato sviluppato da parte dei collaboratori? Pensando e ragionando attorno a questa tematica essenziale, ovviamente non ci siamo nascosti che esistono dei noi che non sono così positivi come quelli della socialità, eccetera, ma esistono dei noi che sono altamente tossici, come sono quelli del suprematismo, del sovranismo, del razzismo e del noi da contrapporre ad altri noi. Quindi siamo andati un po' a scandagliare entrambe le facce di questo noi, non tutte purtroppo positive. Ovviamente, come sempre accade, visto che la rivista ha circa una ventina di 22 articoli per ogni numero, ovviamente i punti di vista sono tantissimi. È stato analizzato per esempio frase famosa della Thatcher che diceva che la società non esiste, esistono solo gli individui, quindi centratissimo questo tema, questo argomento all'interno del macrotema di Zona Franca numero uno. Abbiamo visto per esempio l'egoismo anarchico esiste, può esistere, è stata analizzata l'opera di Max Stirner, si è parlato per esempio Casa Galassi, che è un'esperienza comunitaria di un gruppo di amici che ha deciso di andare a vivere insieme, probabilmente contro tempo scaduto, visto che questa era un'esigenza comunitaria, diciamo, degli anni 70. Per esempio parla anche di Stefano Tassinari, a cui la questione della comunità, del collettivo era molto cara, e di Henri De Luca, per esempio, del noi, della contrapposizione tra noi femminile e noi maschile all'interno delle lotte del 68. Quindi abbiamo parlato veramente tantissimi argomenti riguardanti questo macro tema. Ecco. Sì, ci fai qualche nome dei collaboratori di questo numero? Certo, sicuramente, vabbè, sei tu, ci sono io. Vabbè, no. Dopodiché c'è Paolo Ciampi che è l'editore e intellettuale fiorentino, appunto, che è il responsabile della casa editrice I Libri di Monpracem, che ci pubblicano. Ci sono Cristina Muccioli, c'è Alberto Sebastiani, Maria Rosa Cutrufelli. Natalino Balasso, vedo. Certo, Natalino Balasso, lo scrittore Massimo Vaggi. Michele Dell'Ara. Andrea Panico, psicanalista, Piero Di Domenico. Appunto, ho sotto la copertina che tu mi hai mandato e vedo appunto che ci sono anche diverse persone che collaborano con la nostra radio, come Piero Di Domenico, come Alfredo Pasquali. Alfredo Pasquali, certo, il quale ha fatto un bellissimo articolo sul jazz, sulla Liberation Music Orchestra di Charlie Haden e Carla Bley, che sono proprio il classico ensemble jazzistico che si è impegnato politicamente, che si occupa di sociale, di importantissime questioni sociali, eccetera. Quindi molto composito, il numero va a toccare davvero tanti temi, tutti riguardanti ovviamente l'io versus il noi. We'll be right back.